Chiesa, pronta? Siete veramente pronti stasera? Spero che abbiate portato il sacco a pelo, perché entro domani mattina alle 7, per la maggior parte di voi che vanno a lavorare, dovremmo farcela, perché stasera siamo nel Salmo 119, il salmo più lungo del libro dei salmi. Sono 176 versetti, 22 strofe, è il capitolo più lungo della Bibbia, e non solo, è un capitolo lungo più di molti altri libri nel Nuovo Testamento, ma anche nel Vecchio. È un salmo fantastico, è un salmo bellissimo, e in questo noi ci vogliamo tuffare, e strofa per strofa, verso per verso, perla per perla, lo scaveremo e lo... ma questo non ci sta. 176 versetti, ci siete? Alcuni di voi, mi piace, pastore, mi piace questa risposta. Io lo farei veramente, ma purtroppo non possiamo, non vogliamo, a parte gli scherzi. Il Salmo 119 è un salmo fantastico, è un salmo che parla della sua parola, e per 176 versi non fa altro che lodare, apprezzare, amare e elogiare la parola del Signore. Come ho detto, sono contenute 22 strofe, perché questo salmo in realtà è una poesia. Il salmista si è seduto, ha fatto uno sforzo mentale, ha fatto uno sforzo di cuore, ha fatto uno sforzo di adorazione per scrivere 172 poesie piccole o strofe, e le ha fatte in forma di un acrostico, perché il salmo, questo salmo, è un acrostico. E molti di voi dicono: che cos'è un acrostico? Io non lo sapevo neanche, sono andato su Wikipedia, e Wikipedia dice che un acrostico è una poesia che inizia con la seguente lettera dell'alfabeto, e quindi per ogni strofa il salmista in questo salmo ha iniziato con una lettera diversa dell'alfabeto, e quindi ha iniziato con Aleph, Bet, Gimel, la terza lettera dell'alfabeto ebraico è la G, purtroppo è così, e così è andato il salmista, e quindi per 22 strofe, verso dopo verso, ha elogiato la parola con questo strumento. Ma il Salmo 119 è anche un salmo sapienziale, cioè che ha a che fare con la sapienza, vuole darci sapienza, vuole istruirci su quella che è la sua parola. E infatti il Salmo 119 ricorda tanto i proverbi nel suo linguaggio. Non so se l'avete mai letto tutto di un fiato. Io l'ho fatto più volte perché ne avevo bisogno, perché sai, a volte non si riesce a leggere, lo leggi a pezzettini, però leggendolo tutto di un fiato hai proprio questa immagine intera di questo salmo che è magnifico. E ogni versetto ha un suo tema, o comunque una sua idea su quello che la parola di Dio è, ed è una cosa bellissima. E piuttosto che avere un senso logico consecutivo, no? Magari il libro dei Romani dirà: siccome noi siamo questi, allora questo, siccome noi siamo così, allora Dio ha fatto questo, e perciò, quanti perciò e dunque ci sono nel libro dei Romani, questo, no? Il Salmo 119 non è così, ogni versetto è quasi un'isola, con idee diverse, però ci sono alcune che sono principali, cioè ci sono alcune idee, alcuni concetti che ritornano più volte nel Salmo 119. Alcune di queste vorrei vedere insieme a voi. Quindi se vi va, e quindi leggeremo insieme una strofa, leggeremo una strofa e ci concentreremo su un versetto. Adesso alcuni saltano, diceva, fino a me, meno male, perché stanotte voglio dormire perché domani voglio andare a lavorare. Leggeremo quindi questa strofa e ci concentreremo su questo versetto, cioè il versetto 18, e da questo versetto, le sue tre frasi, estrapoleremo questi principi che sono in tutto il Salmo 119. Vi va? Allora concentriamo i nostri cuori. Signore, veniamo davanti a te e chiediamo: sostienici, aiutaci, Signore. Padre, sostieni me, aiuta me in particolar modo ad essere fedele con la tua parola, Signore. Apri i nostri cuori a ricevere quello che tu hai per noi, nel tuo nome. fa del bene al tuo servo perché io viva e osservi la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo. Tu rimproveri i superbi, i maledetti, che si allontanano dai tuoi comandamenti. Togli via da me l'insulto e il disprezzo, perché ho osservato le tue testimonianze. Quando i potenti si siedono a sparlare di me, il tuo servo medita i tuoi statuti. Le tue testimonianze sono la mia gioia. Le tue testimonianze sono la mia gioia. Esse sono i miei consiglieri. E il Salmo va avanti così, verso dopo verso dopo verso, ma il verso 18 contiene queste tre frasi. C'è scritto: apri i miei occhi, ho bisogno di vedere, sono cieco, apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie, contemplerò le meraviglie dalla tua legge. Come ho detto, vedremo tutte queste tre frasi, però iniziamo dall'ultima, le mettiamo sotto sopra, iniziamo dall'ultima frase o parola in realtà, cioè dalla tua legge. Il salmista dice: apri i miei occhi perché voglio contemplare le tue meraviglie e quanto tu sei meraviglioso dalla tua legge, dalla tua parola, da quello che tu hai detto, da quello che tu ti sei rivelato di essere. E in particolar modo questo salmo elogia, apprezza, loda la parola di Dio. Sapete, abbiamo visto gli altri salmi. E vi ricordate, gli altri salmi spingevano i nostri sentimenti, il nostro cuore, la nostra vita alle cose di Dio, a vivere le cose come Dio vuole che noi le viviamo. Vi ricordate, fate con la testa così almeno, vi ricordate gli altri salmi, vi ricordate per esempio i salmi di lamento? Ci aiutavano a lamentarci nella maniera giusta, perché ci si può lamentare, ma con Dio, verso Dio e trovando la speranza in Dio. Abbiamo visto i salmi di ringraziamento, vi ricordate? Che ci aiutano a ringraziare, ci spingono, spingono il nostro cuore a ringraziare il Signore per chi Lui è, per quello che ha fatto. E così via, abbiamo visto altri tipi di salmi. Questo salmo ci spinge, ci forza, ci risveglia ad amare la Sua parola. E la Sua parola scritta in questo libro. Perché sappiamo che Dio parla e parla in maniere diverse, vero? Dio parla attraverso un'altra parola, per esempio, la parola per eccellenza, la parola che si è fatta carne, Cristo Gesù, è la rivelazione perfetta di chi Dio è e di come vuole amarti e di come vuole abbracciarti. Dio lo fa attraverso la natura, c'è scritto in Romani 1. Tutto il creato, tutta l'umanità non ha nessuna scusa, perché Dio è chiaramente riconoscibile in quello che Lui ha fatto. C'è scritto questo, e queste sono rivelazioni diverse. Questa è una rivelazione particolare di Dio. È il Salmo 119, in tutti i suoi 176 versi, loda, elogia, ammira e vuole amare sempre di più quello contenuto in questo libro. Come so che sta parlando in maniera specifica di quello che è stato scritto da Dio in questo libro? Dalle parole usate in tutti i versetti del Salmo 119. Eccetto sei versetti, quindi su 176, eccetto sei, ogni versetto contiene un riferimento alla sua parola scritta. E usa queste parole, sentite, legge, che in ebraico è Torah, e la Torah sono i primi cinque libri della Genesi, del Vecchio Testamento. Testimonianze, precetti, statuti, comandamenti, giudizi, parola. Il salmista vuole accendere il nostro cuore. La mia preghiera è che stasera il Signore possa accendere il nostro cuore attraverso il Salmo 119 alla sua parola, perché noi crediamo, fratelli e sorelle, che questa è parola di Dio. Sappiamo che è stata scritta da quasi 40 autori. Ma sappiamo che quando questi 40 autori hanno scritto i 66 libri contenuti nella Bibbia, non stavano depennando le loro idee, le loro filosofie, i loro pensieri. Ma c'è letteralmente scritto in 2 Timoteo 3 che quando questi autori scrivevano, in realtà Dio stava soffiando, ha ispirato, questo è quello che significa, ha soffiato in loro i suoi pensieri, la sua rivelazione, la sua parola. E quello che hanno scritto questi autori è la voce di Dio, è quello che Dio vuole dire a te e a me. Per questo questo libro è prezioso. Per questo il salmista lo elogia in tutti i suoi versi e per questo noi dobbiamo pregare, leggere, memorizzare il Salmo 119 affinché l'amore suo in noi per la sua parola possa crescere e possa moltiplicarsi. Questo è quello, è l'intenzione di questo Salmo. E quindi il salmista dice: dalla tua legge, da questi 66 libri, voglio scoprire le tue meraviglie. E questa è la seconda frase, sempre nel verso 18. Dice: dalla tua legge contemplerò le meraviglie. Perché questo libro contiene delle meraviglie. Contiene delle meraviglie a non finire. E in particolar modo il Salmo 119 ne contiene tante, tante, tante, ma bellissime. E insieme le vedremo tutte, tutte, tutte. Siete d'accordo? No, dai, ormai è una battuta. Ne vedremo 3. Solo 3 di queste meraviglie contenute nel 119. Ma guardatele insieme a me, bellissime. La prima meraviglia che viene fuori ripetutamente dal Salmo 119 è la vita. E cioè che la sua parola è vita. Ci porta vicino. Leggiamo insieme, verso 25. Sentite questo, sempre dal Salmo 119. Sono prostrato nella polvere. Il salmista dice: mi ricordo da dove vengono. Polvere sono e polvere tornerò. Sono prostrato nella polvere, ravvivami, dammi vita secondo la tua parola. Il verso 50. Questo mi è di conforto nell'afflizione. Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Verso 93, mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu dai la vita. Non è meraviglioso? Il Salmo lo ripete più volte, che la sua parola è vita. Fratelli e sorelle, questo libro, letto, riletto, meditato, studiato, memorizzato, porta vita. Vita in noi. E io credo che porta vita fisica, fisicamente. Ravviva le nostre ossa, i nostri muscoli, i nostri tessuti. Perché? Perché vita significa vita, punto. Noi siamo, vabbè, ma qui sicuramente sta pensando. No, vita significa vita. Se tu leggi, studi, mediti questo, porterà vita alle tue ossa. Rinvigorirà il tuo corpo. E certamente sta parlando anche di vita spirituale. Se ti senti morto questa sera, dentro, e lo sai solo tu, puoi smettere di cercare, perché la vita è in questo libro. Questa è una delle meraviglie che il salmista vuole ricercare. C'è un'altra meraviglia: la verità. La verità. Il salmista dice nel Salmo 119: la tua parola è verità, e lo ripete più volte. Sentite nel verso 43: non togliere completamente dalla mia bocca la parola della verità, perché io spero nei tuoi decreti. La somma, l'insieme, l'interezza della tua parola, la somma della tua parola è verità. È verità. Questo libro, fratelli e sorelle, è verità. Questo significa che tutto il resto non lo è. Sapete, in un mondo dove noi ci diciamo: vabbè, io credo questo, e per me è questo verità. E se tu credi quest'altro, e ci credi veramente, allora è vero per te, e va bene. Va bene. Quanto spesso mi ritrovo a dirlo anch'io, queste sono sabbie mobili, fratelli e sorelle. Sono sabbie mobili nel quale noi sprofondiamo e moriamo. Vuoi mettere delle solide fondamenta di calcestruzzo rinforzato? Metti la sua parola, perché questo libro è la verità. Gesù stesso ha detto questo. se perseverate, sentite cosa dice in Giovanni 8, se perseverate nella mia parola, se perseverate in quello che io ho detto attraverso questo lì, se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo è quello che Gesù stesso ha detto. Gesù stesso ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Vuoi conoscere la verità? Le verità assolute, tipo, ma che esisto a fare? Ma qual è la ragione della mia esistenza qui su questo pianeta? Le troverai qui. Vuoi trovare verità relative alla tua situazione? Non so cosa fare con mio figlio. Non so cosa fare con mia moglie, con mio marito, con quell'amico, con quel parente. Ho bisogno di verità per sapere cosa fare e fare la cosa giusta. Puoi smettere di cercare, perché la verità è qui dentro. Questa è un'altra delle meraviglie contenute nella sua parola. La terza meraviglia, è la gioia. È contenuta anche nel Salmo 119, più volte, spesso il salmista ripete, la tua parola è gioia. Sentite, verso 24, le tue testimonianze, quelle scritte qui dentro, sono la mia gioia. Non è fatto, oh, è tutto di così. Come potete rimanere così? Le sue testimonianze, la sua parola è gioia. È una cosa meravigliosa. Fatelo al verso 47. Sentite. Troverò gioia nei tuoi comandamenti perché li amo. Questo dovrebbe essere un sorriso sulla nostra bocca. Perché sono gioia. Verso 92. Sentite questo. Se la tua parola non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Lo ripeto, se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei perito nella mia afflizione. Lotti con depressione. Ogni tanto ti senti triste senza averne un motivo. Esci la tua spada. La Bibbia dice che la parola è una spada. Esci la tua sguainala. E farà la tua tristezza a fettine. Forse una fettina alla volta. Dovrai memorizzare prima il Salmo 43, poi il 41, poi Isaia 41:10 e così via. Ma un pezzettino alla volta farà la tua tristezza a fettine. Perché la sua parola è gioia. Perché la sua parola è gioia. Hai problemi con ansia? Io ho problemi con ansia. A volte, non sempre. Ma a volte ho problemi con ansia. E sapete cosa faccio? Isaia 41:10. Tu non temere, perché io sono con te. Tu non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico. Io ti sostengo. Con la destra della mia giustizia, io ti aiuto. La sua parola è gioia. E queste sono solo tre delle meraviglie contenute solo nel Salmo 119. Ci sono innumerevoli meraviglie. Il salmista dice nel verso 18 che vuole contemplare queste meraviglie. Le vuole contemplare. Eh sì, perché non si può guardarle, no? Cioè, quando c'è una meraviglia, quando c'è una cosa troppo bella, quando c'è una cosa che porta gioia e porta gioia infinita, allora non si può fare, beh, bello, e poi te ne vai. No, non puoi solo guardarla di sfuggita o dire, guardare una volta e dire, ok, va benissimo. No, la contempli, la miri, proprio come un'opera d'arte, no? Perché è così bella, o magari perché è così grande, è così meravigliosa. Fratelli e sorelle, la sua parola contiene Dio, contiene la descrizione di chi Dio è, è quello che vuole fare nella tua vita, è quello che tu significhi per Lui. Non c'è opera d'arte più grande di questa e può essere solo contemplata. Sapete cosa si fa quando si contempla? Si guarda. Si riguarda E si dice, mo. E poi si guarda di nuovo. E si riguarda di nuovo. E si guarda di nuovo. E si dice, mo. Il salmista, dalla sua parola, le sue meraviglie, vuole contemplare. La mia preghiera è che il nostro cuore si possa spalancare e che noi possiamo essere meravigliati e contemplare le bellezze contenute nella sua parola. Non c'è cosa più meravigliosa di questa, fratelli e sorelle. Non ci sono meraviglie più grandi, non c'è vita più vera che questo libro. Se io ho deciso anni fa, tanti anni fa, quando ho iniziato a predicare, non predicherò le mie idee, non predicherò i miei pensieri. Perché? Perché le mie idee, i miei pensieri, a volte saranno giuste. E sapete cosa faranno nei vostri confronti? Meglio è bello. Poi uscite fuori e le dimenticherete. Le mie idee a volte saranno sbagliate e provocheranno danni in voi. Per questo io ho scelto di predicare la sua parola, perché la sua parola è vita, perché la sua parola è verità, perché la sua parola è gioia e questo trasformerà le nostre vite se noi dimoriamo nella sua parola e se la contempliamo. L'ultima parte, l'ultima frase del versetto 18 è il salmista che grida. Inizia così il versetto, no? Dice, apri i miei occhi, apri i miei occhi, perché io non riesco a vedere tutto questo, io sono cieco, apri i miei occhi. Guardate come inizia il Salmo, dal verso 1, sempre il 119. Beati quelli la cui via è senza macchia e camminano nella legge dell'Eterno. Beati quelli che osservano i suoi precetti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu hai ordinato di osservare i tuoi comandamenti con cura. Sta dicendo beati, beati, beati, benedetti, felici, veramente soddisfatti, quelli che mantengono la sua legge, lo osservano tutto, tutto quello che dice c'è scritto. Senza macchia e camminano nella legge. E dice, non lo so voi quando leggete questi, però a me viene e dice, vabbè, grazie, no? Uno osserva tutte queste cose, segue meticolosamente Dio e la sua volontà, e grazie, no? Che uno è felice, è veramente soddisfatto, è benedetto, è beato, come dice il Salmo. Grazie. Ma io non ce la faccio. Come si fa? Come si fa? Guardate, un primo grido d'aiuto viene dal verso 5. Secondo me il salmista, guardate cosa dice il verso 5. Oh, oh, che le mie vie siano ferme nell'osservanza dei tuoi statuti. C'è proprio questo grido. A dire, Signore, io ci credo nella tua legge, io credo che è verità, che è gioia, è vita vera. Ma è difficile, io non ce la faccio. Aiutami. Verso 8 dice, osserverò i tuoi statuti. Voglio osservare i tuoi statuti. Voglio prendere questi miei. Io li osserverò. Non abbandonarmi mai. Non abbandonarmi mai, perché io non ce la faccio. Apri i miei occhi, dice il salmista. Lo dirà in tantissimi altri versi. Aiutami, perché io da me stesso non riesco a vedere che questo è un tesoro. Non riesco a vedere che questo è prezioso, non riesco a vedere che questa è vita, non riesco a vedere che questa è gioia, non riesco a vedere che questa è verità. Apri i miei occhi, perché io non ce la faccio. È come se il salmista subito vede la meraviglia della parola e la vuole con tutto se stesso e poi vede se stesso e dice, Signore, non ce la faccio, è impossibile, apri i miei occhi. Apri i miei occhi. E chiede, questo grido forse lo fa nel verso 17 in maniera meravigliosa. E ci dà una chiave proprio, ci dà una chiave a quello che noi dobbiamo pregare, insieme al Salmo 119. Guardate il verso 17, dice, fa del bene al tuo servo e io vivrò. e osserverò la tua parola. Il salmista dice: fammi del bene, estendi la tua misericordia, estendi la tua grazia, estendi la tua potenza nei miei confronti, salvami, sta dicendo in altre parole, estendi la tua bontà nei miei confronti e allora sarò vivo. Dice: e allora vivrò. E quando vivrò, quando i miei occhi saranno aperti per la prima volta, quando io come un bambino piccolo aprirò per la prima volta i miei occhietti, allora osserverò la tua parola. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno che Dio intervenga nelle nostre vite affinché Lui apra i nostri occhi, perché noi siamo ciechi. Ma questo è il messaggio del Vangelo. È il messaggio del Vangelo, questa è la nostra speranza. Dai noi stessi, noi non possiamo, non ce la facciamo. Questo è un libro duro, è un libro difficile, è un libro pesante in certi sensi. Per questo noi andiamo a Lui e questa è la Sua grazia, il Suo Vangelo, perché è Lui che inizia in noi. È Lui che dice: sì, tu sei mio figlio, vivi. E lì i nostri occhi fanno e noi lo vediamo. E noi vediamo Lui e vediamo la Sua parola in maniera diversa. Per questo costantemente siamo chiamati a pregare: Signore, apri i miei occhi. E abbiamo bisogno di aprirli almeno in tre sensi. Velocemente voglio vedere questi tre sensi anche in maniera molto pratica. La prima cosa per la quale dobbiamo pregare affinché il Signore apri i nostri cuori, l'ho già detto, è affinché noi possiamo vedere questa come verità, come Sua parola, come il tesoro che è. Perché noi siamo ciechi e non riusciamo a vederlo come il tesoro che è. Ogni qualvolta che andiamo alla parola abbiamo bisogno di dire: Signore, togli quel velo, dammi la vista affinché io possa vedere. Apri i miei occhi, apri i miei occhi. Io lo so che voi siete spirituali, super spirituali, però io no, io non lo sono. E quando ho bisogno di prendere questo libro è pesante. Devo forzare me stesso, devo fare forza a me stesso per aprirlo, per studiarlo, e mi viene molto più facile altre cose. È molto più facile per me aprire la pagina Facebook, essere intrattenuto da quello. A volte trovo più gioia, rilassatezza nella televisione che in questo. Si accende qualcosa in me, in noi, molto più facilmente da altre cose e non dalla Sua parola. Forse la pornografia, forse altre cose che guardiamo, che accendono qualcosa in noi. Perché accendono qualcosa in noi piuttosto che la Sua parola? Perché, fratelli e sorelle, siamo ciechi. E per questo gridiamo: apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi affinché io possa vedere quelle cose per la spazzatura che sono e possa vedere la Tua parola per il meraviglioso tesoro che è. Apri i miei occhi, che io possa vedere le gemme, le meraviglie contenute nella Tua parola. La seconda cosa per la quale abbiamo bisogno del Suo aiuto ad aprire i nostri occhi e per comprendere. Non solo abbiamo bisogno di vedere questo libro in maniera meravigliosa, ma abbiamo bisogno del Suo aiuto, che Lui apra i nostri occhi. Nel verso 27 c'è scritto che Lui apra i nostri cuori, no scusate, il 32, dice che Lui apra i nostri cuori affinché possiamo comprendere quello che c'è scritto. Molto spesso ho persone che vengono da me e dicono: Gianlu, ma io la leggo, ma non la capisco. La rileggo e non la capisco. È difficile. E la risposta, troppo spesso, è: ma la Bibbia è un libro semplice. La Bibbia è un libro facile. Ed è così. Ed è così per alcune parti. Per altre, no. Per altre, è complicato, per altre è difficile vedere le connessioni, per altre è difficile capire tutte le meraviglie che ci sono e come sono connesse una con l'altra. Guardate, questo libro, l'ho detto già, parla di Dio, rivela Dio. E deve essere complicato, perché Dio è così tanto più meraviglioso, è così tanto più grande, è così tanto più intricato di quello che i nostri piccoli cervellini riescono perfino a immaginare, che è ovvio che deve essere così. Per questo noi andiamo a Lui e diciamo: Signore, fammi comprendere, perché io non ci arrivo, fammi comprendere. Sapete come mi piace immaginare Dio? Sulla punta del suo trono, che aspetta che noi gridiamo a Lui: apri i miei occhi, fammi comprendere. E Lui salta dal trono e viene in nostro aiuto e ci apre gli occhi, e ci apre gli occhi, e ci apre gli occhi, perché fratelli e sorelle abbiamo bisogno di comprendere. Abbiamo bisogno non solo di leggere e capire qui, abbiamo bisogno di comprendere. Sentite come lo dico, comprendere, che va ben al di là. Ricordo ancora le prime alcune volte quando il Signore mi ha parlato attraverso la sua parola e ho compreso. A volte ho ancora la pelle d'oca perché ricordo come Dio ha rivelato la sua parola a me in quel momento, come l'ha aperta e come ha aperto i miei occhi. Mosè è sulla montagna che dice: Signore, voglio vederti. E il Signore che dice: no, se mi vedi muori, ti metto in questo buco nella roccia. Ti copro con la mia mano, quando passo toglierò la mia mano e ti farò vedere la mia schiena. Questo è quello che Dio fa per Mosè. E poi c'è un verso di tutto quello che Dio poteva dire in quel momento a Mosè, di tutta la sua gloria, di tutta la sua magnificenza, di tutta la sua grandezza, tutto quello che poteva dire, ha detto questo, io sono lento all'ira e abbondante in amore. E quando l'ho letto per la prima volta, quando l'ho capito per la prima volta, quando l'ho compreso per la prima volta, i miei occhi si sono aperti. Signore, tu sei lento all'ira. Non è facile farti arrabbiare. Non è facile per te perdere la pazienza nei miei confronti e nei confronti dell'umanità. Tu sei lento all'ira, ma sei abbondante in amore. Il tuo amore è infinito per me. Grazie. Il tuo amore è immenso per me. Grazie. E anche quando ti arrabbi, e anche quando mi punisci, è per il tuo amore, perché tu sei abbondante in amore. Capite che c'è un comprendere? È un comprendere. E per questo noi gridiamo a Dio e diciamo: Signore, apri i nostri occhi affinché possiamo comprendere. Amen? La terza cosa, l'ultima, è per osservarla, per mantenerla. Non basta che noi scopriamo questo tesoro, vediamo questo che è un tesoro. Non basta che vediamo le sue gemme e iniziamo a contemplarle, a dirle: mamma mia quanto sono belle, le capisco. Capisco che questo è un topazio, e questo è un rubino, e questo è un smeraldo, bellissimo. Non basta. Perché poi dobbiamo prendere questo tesoro e usarlo, mantenerlo, osservarlo. Questa è la sua parola. È come se ti dessi 1.000 euro. No, appena vedi 1.000 euro dici: wow, un tesoro. È un tesoro, è meraviglioso. E poi lo inizi a contemplare. E questi sono 100, e questi sono 100, e questi sono 100. Bellissimo! E poi chiudi lo zaino e lo metti a prendere polvere per il resto della sua vita. Non si fa questo con un tesoro. Un tesoro poi lo spendi, lo investi. E questo è quello che siamo chiamati a fare con la sua parola. Ma forse osservare, mantenere, cioè vedere che queste cose sono meravigliose, comprenderle e poi ubbidire ad esse è la cosa più difficile. Per questo gridiamo: apri i miei occhi. Apri i miei occhi, Signore, affinché io possa ubbidire. Perché io da solo non ce la faccio. Con le mie forze mi è impossibile. E il meraviglioso Vangelo è proprio questo. È per grazia. Noi eravamo morti E quando eravamo morti, Lui è intervenuto e ci ha salvati, dandoci Suo Figlio. Tu sei morto, sei cieco, non riesci a vedere, non riesci a comprendere, e tanto più non riusciamo ad osservare da noi stessi. Ma Lui è grande in amore. È lì sulla punta del Suo trono che aspetta il tuo grido di aiuto. Dice: Signore, aiutami. Signore, io ho bisogno di... per osservare. E Lui salta e ti aiuta. Per questo, fratelli e sorelle, non abbiamo nessuna scusa. Non abbiamo nessuna scusa. È un tesoro meraviglioso. E io prego, ho pregato tutta la settimana, che questo salmo possa risvegliare in noi qualcosa, possa accendere qualcosa in noi, possa accendere questo amore per la Sua parola. E che non possano esserci più scuse a dire: non la capisco, ma è difficile, ma io non so leggere. Non c'è più nessuna scusa per noi, perché noi possiamo, perché Lui ci aiuta ad aprire i nostri occhi, Lui ci sostiene nel scavare, nel vedere chi Lui è in questo libro. Non hai più nessuna scusa. Finisco con questa storia proprio per sottolineare il fatto che non hai più nessuna scusa. Posso vedere chi non sa leggere? Nessuno deve alzare la mano, perché anche se non sa leggere, non alzare la mano, perché non voglio metterti in malattia. Ma nella nostra società chi non sa leggere? Eh? Chi non sa leggere? Ma c'è questa storia meravigliosa di una sorella perseguitata, nella chiesa perseguitata, e lei non sapeva leggere, era un'anziana, e gli anziani erano rispettati in questa società. E lei voleva leggere, lei voleva nutrirsi della Sua parola, però non sapeva leggere. Sapete che cosa faceva ogni giorno? Prendeva il suo grande bimbione e entrava in un autobus pieno zeppo. Pensate un po' agli autobus del Medio Oriente, pieno zeppo. E che faceva? Si sedeva vicino a un giovane che sapeva leggere. Gli chiedeva: puoi aprire qui e mi puoi leggere questo? Io ne ho bisogno. E il ragazzo, siccome gli anziani sono rispettati, questo, non poteva dire di no. E quindi iniziava a leggere. E diceva: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E la sorella diceva: no. Oltre a non leggere, sono pure anziana e non ci sento. Lo devi gridare. E allora il ragazzo iniziava a fare: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca, in un autobus pieno zeppo di persone che per la prima volta udivano la Sua parola. Non c'è più nessuna scusa per nessuno di noi. Tutti possiamo farlo, tutti dobbiamo farlo, con tutto noi stessi, con tutte le nostre forze ci chiama il Salmo. Perché? Perché questa parola è vita vera. Perché questa parola è verità, perché questa parola è gioia e così tante altre meraviglie. Amen? Ci alziamo. Vorrei che adesso chiudiamo i nostri occhi. E voglio lanciarvi una sfida. Voglio lanciarvi tre sfide. E vorrei che ognuno di noi prendesse questo momento per cogliere questa sfida. Il Signore sta lanciando alla Sua Chiesa in questo momento questa sfida per renderla più matura. Fratelli e sorelle, se vuoi essere una roccia nella tempesta, ti aggrappi alla vera e unica roccia che è Cristo Gesù e che la si può conoscere attraverso la Sua parola. Il Signore vuole che la nostra Chiesa maturi di gloria in gloria. Questa è una sfida per tutti quanti noi a maturare a un livello di gloria superiore. E qui sono le tre sfide. Se fino ad oggi hai letto poco, non hai letto o hai letto male, io ti prego, prendi un impegno col Salmo 119 a innamorarti della Sua parola e a leggerla come mai prima. Se fino a ieri l'hai letta solo 5 minuti, prendi l'impegno di mezz'ora. Se era un secondo, 15 minuti, prendi l'impegno di leggerla. La seconda sfida è che se l'hai letta fino ad adesso, l'hai letta e l'hai riletta, e sei frustrato, magari non la capisci, rinnova il tuo impegno a meditarla, a capirla, ad andare al Signore e chiedere aiuto, che Lui possa aprire i tuoi occhi, i nostri occhi, per comprenderla. E la terza sfida è di memorizzarla. È di memorizzarla, sapete, è importantissimo, è fondamentale memorizzare la Sua parola. Il Signore Gesù, quando tentato nel deserto, in battaglia piena, non aveva il libro da aprire con sé, ma lo aveva a mente, nel suo cuore, e ha combattuto il nemico con la parola. Questo siamo chiamati a fare. Nel bel mezzo delle tue tempeste, hai versetti così che a memoria puoi usare per combattere il nemico. Ti lancio questa sfida di prendere questo impegno, a memorizzarla come non hai mai fatto prima. Prendiamo un minuto per pregare davanti al Signore e non prendere un impegno alla leggera, ma dire: Signore, io voglio amare di più la Tua parola, apri i miei occhi, apri il mio cuore a desiderarla di più, a scavarne di più le Tue meraviglie, per conoscerti meglio, per viverti meglio. Signore Gesù, apri il nostro cuore, apri i nostri occhi alle Tue meraviglie.